Cronache Meridiane di Gianluca Nicoletti. Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a green one and a pink one and a blue one and a yellow one and they're all made. Erano grigie, erano rose, erano blu, erano gialle, erano i Little Boxes che cantava Melvina Reynolds. Molti ricorderanno, questa fu la mia prima sigla quando venni a Radio 24 una decina d'anni fa. E questa cantante folk degli anni 60, ma già una venerabile età a suo tempo, schitarrava questa canzone prendendo un po' in giro quella che era la piccola borghesia che si era fatta la villettina, fatte di materiale orrendo, costruite con poco più che compensato, con pannelli prefabbricati, però tutte belle, ordinate, tutte uguali, tutte belle colorate, dentro tutti hanno i loro figli che li facciano fare l'università, passavano i weekend scambiandosi i martini dry, facendo degli incontri, insomma la piccola vita di provincia. In fondo la cantante ribelle, anziana ribelle, voleva dire che in realtà si erano costruite delle gabbie, delle prigioni, nella loro pretesa di distinzione, di uscita dall'omologazione. In realtà si erano nuovamente omologati, erano entrati in una specie di box, di stie per polli tutte uguali. Beh, questa profezia oggi può essere in parte applicata a quella che è l'esito funesto del sogno italiano negli anni del secondo boom economico. Finiti gli anni 60, quando si è raggiunto il benessere base, quando si avevano elettrodomestici in casa, quando i figli andavano a scuola, quando si facevano le vacanze, si cominciava a pensare: perché non ci facciamo la villetta? La villetta significava uscire dagli agglomerati urbani ed entrare in una sorta di idillio onirico fatto di praticelli, di cerbiattini tipo Bambi, di viottoli per camminare con i figli, di incontro con la natura, svegliarsi con gli uccellini, poter fare finalmente una sorta di vita da quasi nababbi. E naturalmente qui poi c'era l'esplodere di quello che chiamo l'eclettismo geometrico, cioè queste villette erano progettate e fatte da geometri, quindi non avevano altro che una sorta di vorrei ma non posso totale, non c'era uno studio architettonico, erano dei bravi professionisti capaci di fare i calcoli per mettersi una casetta. Per quanto riguardava però l'armonia, la ricerca dello stile, ognuno la faceva come voleva, quindi si alternavano come i Little Boxes di Melvina Reynolds, le casette smaltate luccicanti con quelle giallo paglierino, con quelle che imitavano lo chalet alto atesino vicino a quelle che erano costruite come fosse una masseria pugliese, tutto insieme, tutto orripilante e allo stesso tempo fantastico nella sua uscita dalla realtà. È quello che il sommo Tommaso Labranca chiamava, in una certa connotazione geografica, il barocco brianzolo. La Brianza era costellata di villette costruite con questa sorta di eclettismo geometrico. Beh, e oggi cosa accade? Oggi accade che tutti quelli che ancora vivono l'appendice estrema di questo sogno di benessere vivono blindati. Vivere in villa oggi è un incubo, è come vivere alla fortezza Bastiani con i tartari che ogni giorno e ogni notte, anzi, fanno incursione ad attentare la nostra privatezza, le nostre famiglie. Vivere in villa oggi significa vivere blindati, vivere spaventati, significa per qualcuno armarsi, per altri mettere sistemi di sicurezza, per altri comprarsi ferocissimi cani da guardia, per altri vivere nella continua apprensione. Beh, quanti di voi vivono in villa? Quanti di voi hanno la villettina che hanno magari costruito i genitori nei momenti in cui giravano un pochino più di soldi? Quanti di voi hanno trasformato giorno dopo giorno questa ansia di libertà agreste in una sorta di nuova reclusione? 800 24 0024, a tra un istante. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta... Melog. Cronache meridiane. Sp- sparatoria con i ladri in casa nel milanese a Rodano. Un malvivente è stato ucciso dal proprietario dell'abitazione. Secondo le prime ricostruzioni, tre persone sarebbero entrate nella villetta abitata da padre, madre e una figlia di 10 anni. Sentiti dei rumori sospetti, il padrone di casa avrebbe sparato un colpo in aria. A quel punto però i criminali avrebbero risposto all'avvertimento aprendo il fuoco. Sulla vicenda indagano i carabinieri. Sembra che i tre fossero a volto coperto e avessero accento straniero. Il proprietario avrebbe cercato di collaborare e chiesto che non fosse fatto del male alla famiglia, ma i tre lo avrebbero aggredito. A quel punto avrebbe sparato. 800240024. Questa mattina vogliamo sapere qual è lo stato d'animo, qual è la vita quotidiana, quali sono i sogni delusi e vilipesi degli italiani che vivono in villa. Gennaro, buongiorno. Spenga la radio. Spengo subito. Dunque, io come ogni italiano che si rispetti sono spaventatissimo dall'invasione. E essendo spaventatissimo dall'invasione mi sono cercato un cane corso. No, aspetti, lei vive in villa? Diciamo che è un pezzo di una villa a Napoli. Non è proprio una villa, ma insomma è una villa, cioè però, giardino, si può entrare dalla strada. Non è un condominio, diciamo. Diciamo ci sono le guardie, ma è una villa, si può entrare. Ah, quindi ci sono anche le guardie, giù, certo. Quindi sta molto tranquillo lei. No, per niente, vivo nella paura come ogni italiano. Ormai. Non bastano le guardie. Ho comprato un cagnone che mi è stato indicato come cane corso, ma che in realtà secondo me è una gran fregatura, che insegue solo i gatti e scodinzola qualsiasi umano. Ma perché il cane corso dovrebbe essere un cane feroce da guardia, sì? Ebbene, è il cane degli antichi romani, il cave cane, il cane da combattimento. Poi però si è rivelato una mezza fregatura. Troppo buono. Ma mi pare proprio cretino. Però le dico la verità. Ma povera bestia. Poverino, sì, scodinzola solo a tutti gli umani e insegue solo i gatti. Dato che però lui deve fare la guardia agli umani e non ai gatti, cioè il problema è che ci si dovrà munire di altre attrezzature. Lei cosa sta pensando allora? Penso alle pistole, penso alle barricate, alle finestre. Se non si ferma l'invasione, l'Italia e l'Europa non reinserisce, noi non abbiamo altra speranza. Poi nel frattempo che decidono come fermare l'invasione. Adesso usciamo un attimo dallo scherzo. Sì. No, quello è serio. Lei cosa sta pensando seriamente di fare a casa sua per stare più tranquillo? A me è l'aspetto tecnico. Barre alle finestre, pistole. Pistole quante ce ne vuoi? Basta una. Ma io credo che ce ne vorrebbero almeno un paio. Cioè, amici che pensano di comprare i fucili. Cioè, una nascosta nello stivale e l'altra, diciamo, nella fondina. Se gli tolgono la prima. Tra poco, non è uno scherzo. No, chiedo. Tra poco, noi non ci siamo. No, sai, il problema è che l'ultimo gioielliere di cui abbiamo parlato, la rapina a Lucino di Rodano, aveva anche lui aveva varie pistole. Una ne ha nascosta la Glock sotto l'ascella e si è salvato. Però i malviventi hanno risposto al fuoco con una 357 Magnum che li hanno preso dalla cassaforte. Quindi averne più di una si rischia di armare l'eventuale. Ma io purtroppo non ho la cassaforte, ma dato che qui tra poco andranno anche per le lenzuola, perché così sarà, perché gente che ha fame non può che mangiare e per mangiare non può che rubare, quindi purtroppo ci si dovrà difendere. E quindi, io non sono monsignore, non mi posso permettere una barricata con le guardie svizzere sotto il palazzo, per cui l'unica soluzione è tengo lontano chiunque. Comunque è chiaro, diciamo, il primo contributo ci dà il nostro ascoltatore, ha provato con un cane, ma il cane naturalmente te lo vendono per un cane da guardia, poi un cane da chiappo di gatto. Tenterà con l'armamento individuale e le sbarre alle finestre. Gennaro ha parlato, Marco buongiorno. Eccoci, da Trento. Buongiorno, mi chiamo Marco e telefono dalla provincia di Trento, da un posto anche fortunato. In questo momento mi sono fermato in macchina, ho un'esperienza doppia, il furto in casa, la prima casa e la fortuna di avere una casetta fra virgolette in montagna, in un posto stupendo, un villino, siamo un villino costruiti, in montagna. Il villino come diceva lei. Con i sacrifici, con i risparmi. Con tanti sacrifici, mutuo stratosferico, finito e felici. Ho la fortuna di poter testimoniare comunque che... Comunque Marco, scusi. Noi vogliamo far capire al pubblico, quando diciamo villa, intendiamo il villone, è il villino, cioè è una casettina che uno si è fatto. È la casetta costruita con fatica, comperata, insomma, pagata con fatica. Non è una villa, è una casetta. È una casetta bella, bellissima, è un presepe in montagna, 1400 metri, dove sto andando in questo momento, per dar da mangiare ai gatti. E ho la fortuna di poter lasciarle le chiavi di casa sulla porta. Ah, quindi lei sta tranquillo? Qui sono tranquillo, ripeto, io ho subito un furto in casa, prima casa, però ancora la fiducia nella gente, che vive vicino a noi, ci rispetta e voglio pensare positivo anche se non ho figli. Vabbè, lei ancora sta in un posto, innanzitutto in montagna è difficile se hanno le rapine, seconda cosa c'è ancora una comunità, diciamo, coesa. C'è una comunità presente, Vediamo, è una situazione fortunata la sua. Invece Giovanni, buongiorno. Giovanni. Sì, buongiorno. E lei invece dove abita? Dove abita lei? Allora, io abito nei Castelli Romani, a Vellesi precisamente. Ecco, lì è zona di Villini. È zona di Villini, ce ne sono. Ci sono molti villini, perché il territorio di Vellesi è un territorio abbastanza vasto nelle campagne. E quindi diciamo che abbiamo anche noi lo stesso problema degli altri ascoltatori. Guardi, le faccio un esempio doloroso della nostra famiglia della radio. Il professor Chiappini, che lavora con noi, oggi non è presente, ma è la persona che mi mette in onda quasi tutti i giorni, vive anche lui a Velletri, ha un allarme legato al cellulare. Una volta durante la diretta suonò il cellulare, erano entrati nel suo garage e li portano via la 127. Quindi accade alle vostre parti? Sì, molto spesso. Guardi, le devo dire che purtroppo le forze dell'ordine fanno molto lavoro, però sono... Ecco, e lei cosa pensa, di fare? Allora, cosa pensa di fare per mettere in sicurezza casa sua? Guardi, io ho fatto semplicemente una cosa, ho un cane esterno che gira per il giardino, è un pastore tedesco con un incrocio con un maremmano, quindi molto bello, molto grande e anche feroce. Guardia, devo dire, fa la spia più che guardia. Ce lo abbaia, ecco, quando sente, esatto. E però se gli danno una salsiccia se la mangia. Se gli danno una salsiccia, non è addestrato. Certo che se la mangia. Quindi il cane, esatto, lo fa, poverino. Non è addestrato in quel modo. Oggi rischia... non è successo, perché per avvicinarsi, insomma, fa prima confusione e poi eventualmente la salsiccia. Un rapinatore privo di scrupoli mette subito fuori uso il cane. Certo. Vabbè, poi oltre al cane cosa pensa? Questo è vero. Oltre al cane cosa pensa? Io devo dire che le racconto soltanto in secondo che mi ha salvato da una rapina, diciamo così, perché sono entrati dalla finestra del ballatoio, del balcone praticamente, una notte, ma io siccome ho anche 5 chihuahua dentro casa, che automaticamente hanno, come ha sentito il rumore delle finestre, chiaramente ha fatto confusione, sono uscito io e ho fatto confusione, ho strillato e questo qui. Quindi con l'aiuto dei chihuahua, facendo rumore, è bastato. Esatto, anche perché per il resto non è che ci sono tante cose, anche se sono praticamente ci sono le armi e quant'altro, però noi purtroppo quando arriva il rapinatore esterno o chiunque sia che può entrare, noi non lo sappiamo mai, ci trovano sempre sprovveduti. Non abbiamo neanche il tempo di pensare di prendere o una pistola, un fucile o un bastone, secondo me. Quindi hanno sempre la parte, il coltello dalla parte del manico, chiamiamolo così, secondo me. Quindi sono delle cose che bisognerebbe affrontare in un modo diverso. Con le forze dell'ordine. Va bene, è chiaro, comunque anche nei Castelli Romani questo paura. Claudio, sentiamo un po' di ascoltatori, poi avremo un ospite che sarà un esperto, ci darà dei consigli pratici, però vogliamo capire prima come stanno provvedendo alla loro maniera gli italiani a continuare a salvaguardare il sogno del villino. Claudio. Claudio, sì, buongiorno. Io sono un agricoltore, per cui ecco, ho un'azienda agricola nel nord della Puglia. E ho avuto lei è una masseria, quindi una masseria? Sì, chiamiamola così in modo antico, masseria. Sì, ripeto, i furti sono stati tanti, attrezzi agricoli, gasolio e le compagnie assicurative la prima volta... Scusi Claudio, ma chi ruba gli attrezzi agricoli e il gasolio è un suo collega che fa l'agricoltore o no? No, assolutamente. Li vendono come ferro. Sicuramente ricaveranno quattro spiccioli, però per un imprenditore poi andarli a ricomprare è complicatissimo. Che tipo di attrezzi rubano? Diciamo aratri, erpici, cose grosse o piccole? Che le devo dire, vanno dai tombini, anche dai tombini di Ghisa, insomma, a vendemmiatrici, a Mitrebbi. Quindi cercano il metallo da rivendere, va bene. E però quindi... ecco anche il cavallo di ritorno, il riscatto. Le dicevo, le compagnie assicurative la prima volta la coprono, poi danno disdetta e quindi ci resta che appostarci con il fucile. Per fortuna quelle poche volte che mi sono appostato, poche o tante, insomma, non è mai venuto nessuno, altrimenti... Ma lei come fa? Fa dei turni di guardia armato? Come fa a appostarsi col fucile? Si mette lì, aspetta. No, qualche volta capita, ecco, che uno si lascia prendere da debolezze e va. È un momento di confessione, come quando uno sta al passo delle folaghe, si mette lì dentro una botte e aspetta che passino. Come funziona? No, assolutamente. Si tratta di persone che non fanno questo come mestiere, fanno tutt'altro, però ecco, nella condizione magari di disperazione qualche volta può succedere. Però fa uno, si mette lì, si porta il fucile a casa, cos'è che fa per capire l'esasperazione, il livello di esasperazione? In genere chi ha le campagne è cacciatore, per cui ecco anche le armi. Si tiene la doppietta vicino al letto, dice, se vengono in pallino, ecco questa cosa qua. Mi sembra un pensiero che attraverserebbe la mente di chiunque. Fermiamoci un istante, riprendiamo fra un secondo con l'ospite, comincerà a darci dei consigli un po' meno empirici e forse più concreti per vivere più serenamente in villetta. Investi in fondi? Solo con Online Sim scegli tra oltre 4.000 fondi a zero commissione d'ingresso. Vi presenta... Sono Maria Latella e la domenica mattina finora potevamo incontrarci in TV. D'ora in poi invece ci troveremo anche su Radio 24, ogni domenica mattina alle 10, per parlare di donne perfette, imperfette, aspiranti alla perfezione e di come ci vedono gli uomini. Vi aspetto ogni domenica mattina alle 10 su Radio 24. Ascoltaci anche in digitale sul DAB. Melog. Cronache meridiane. È successo quello che noi tutti abbiamo paura che succeda, no? Perché quando uno va a letto, soprattutto quando uno abita magari anche in una casa isolata come può essere questa, ha sempre paura che magari ti possa entrare qualcuno, di trovare qualcuno, eccetera. C'è stata una delle rapine in villa negli ultimi giorni in questa zona, una rapina violenta. Mia moglie ha sentito delle urla verso le 3 di notte e la mattina abbiamo avuto la amara scoperta invece che c'era stata una rapina nell'abitazione di mio padre. Lui è uscito dal bagno, gli hanno messo una tenda sulla testa, l'hanno riempito di calci e di pugni. Fortunatamente non avrebbe mai detto quando i nonni probabilmente o i padri delle persone che parlano riuscirono, facendo allora grandi cambiali, grandi sogni, grandi progetti, con tutta la famiglia convocata, con il geometra di fiducia che presentava il progetto: qui potremmo mettere la tavernetta, qui potremmo mettere la camera dei ragazzi, qui la finestra che affaccia sul boschetto. Ecco, avevo mai pensato che in realtà avrebbero lasciato in eredità un luogo da incubo, una sorta di prima linea ai loro nipoti. Un po' la situazione è questa. Quello che sembrava il simbolo dell'emancipazione economica e sociale, vivere in villetta, oggi corrisponde a una sorta di incubo. Chi oggi vive in villetta, gli italiani che hanno fatto questa scelta, o perlomeno sono trovati già fatta questa scelta, vive una situazione di terrore. Gli attacchi alle villette sono all'ordine del giorno, gli episodi cruenti poi di reazione o di effrazione o di violenza nei confronti degli abitanti a villetta portano le persone a immaginare dei sistemi di difesa, e su questi oggi ci stiamo interrogando. Fiorenza, buongiorno. Buongiorno, mi chiamo Fiorenza, abito a Bergamo e in una zona dove purtroppo avvengono abbastanza furti. Noi ne abbiamo già avuti due, il secondo ci hanno sedato tutti. Come hanno fatto a sedarvi? Non lo sappiamo, nel senso che sono entrati togliendo il blocco della porta, e normalmente noi ci svegliamo con i rumori, ma al mattino ci siamo svegliati tardissimo con mal di testa, il cane sedato, picchiato anche lui, e una vanga all'interno della casa, per cui ci siamo anche spaventati, perché quella vanga non preludeva niente di buono, uno non entra in casa con una vanga. Ci hanno rubato un'auto piuttosto costosa e dopo quell'esperienza lì abbiamo pensato che, sentendo poi tutto quello che succede... Cos'è una villetta la vostra, una villa grande? Sì, è una villetta contigua ad altre villette. Quindi diciamo la situazione che noi stiamo descrivendo, delle persone che con i loro risparmi, frutto del loro lavoro... Sacrifici, abbiamo comprato questa casa... Si sono fatti le villette a schiera mettendosi d'accordo... Sì, esatto. Pensando che era un modello di vita migliore, in realtà oggi è un incubo. Beh, allora diciamo che non è tanto meglio neanche negli appartamenti, perché mia madre sono saliti al terzo piano e hanno fatto un danno enorme, però diciamo che nella villetta in qualche maniera ti senti un pochino più isolata, perché i muri non sono contigui, se urli non sei sicuro che ti sentano. In ogni caso, noi abbiamo, dopo questa esperienza veramente traumatica, abbiamo fatto tutti il porto d'armi, che è una cosa proprio di reazione. Io mio marito, gliel'hanno dato il porto d'armi, come l'ha motivato? Senza nessun problema, gli dice che, ma insomma, lo sanno, ti dicono, appena continuano ad arrivare persone, io sono una donna, e quando ho comprato l'arma ho chiesto un fucile a pompa. Beh, è un'arma impegnativa per una donna. È molto impegnativa, infatti, ma me ne hanno fatto vedere una per donne, dove tolgono l'impugnatura, la rendono più piccola, sì. E quindi hai un contraccolpo minore. È un calibro 12, diciamo, fatto, si chiama Riot Gun, è un fucile da rivolta, serve apposta. È una cosa di quel genere lì, ecco, la cosa... Ha provato a spararci però lei? Ho provato a sparare, ma è un contraccolpo, intanto io ho il terrore delle armi, dunque è anche questo il problema, che io mi trovo in quella situazione di nodo mentale per cui ce l'hai ma non vuoi usare... Ha provato anche a usare la pompa, perché non è facilissimo ricaricare. No, ho provato, quando l'ho comprata mi hanno fatto sparare ed è potente, in effetti la pistola è meglio, però... Sì, ma quello se prende un essere umano... Se c'è una munizione giusta, no, te lo apre in 50 parti. Lo trasforma in polpette, lo trasforma. Sì, non lo trovi neanche più. Ma infatti, noi lo e questa è la situazione: noi possiamo metterci i proiettili, le munizioni, ma ci mettiamo i proiettili di gomma, che è come un pugno di 90 kg. Sì, diciamo che a distanza ravvicinata. Potrebbe però lei l'ha caricato a gomma e se lo tiene sempre vicino, come funziona? Tutte le sere lo carichiamo, chiudiamo casa, chiudiamo il cancello, tutte le inferriate, mettiamo l'allarme in più a un cane che è aggressivo. Quindi diciamo col fucile a pompa e con il cane dovrebbe stare tranquilla. Lo dice lei, perché se io sparo col fucile a pompa, che è un pallettone, entra della gente come quello lì che sono entrati con le pistole vere, le fai incazzare anche di più, per cui è infatti quello che ci hanno anche detto addirittura le forze dell'ordine. E di no, ovviamente di non usare armi, ma se capita di usare le armi le devi usare, non puoi usare e dargli una carezza, perché questi reagiscono. Beh, certo, deve essere sicuro di colpirlo, perché se non lo colpisce a tempo che lei aziona la pompa per rimettere in canna il secondo colpo l'hanno già presa. Sì, ma è lì scatta il fattore emotivo, perché io sono convinta che ma lei deve abituarsi tutti i giorni, cioè allenarsi, deve prendere il fucile tutti i giorni, deve sparare e ricaricare con la pompa, se no la prima volta si ferma lì. No, ma per quello il fucile a pompa l'ho comprato io, ma c'è la mio marito dal lato del letto, lui è capace di usarlo. Il problema è che psicologicamente, se ti capita una roba del genere, non è che hai la freddezza di pensare adesso faccio quello. Però dormite più tranquilli con l'attrezzo lì vicino, sempre sì, diciamo che abbiamo trovato quella via di mezzo, è comunque un pallettone di gomma. Non ha un pallettone unico, bisogna fare a rosata, dovete metterci una munizione spezzata, così fa una rosa e c'è un bersaglio più largo da colpire. Un pallettone unico lo prende, rimbalza sulla gioca a ping pong, poi che fa? No, ma ne carichi 3 o 4 alla volta, per quello. Vabbè, sarete allenati, già questo è un consiglio. Nicolò. Nicoletti, allora arrivo sul punto. Noi abbiamo avuto un tentativo di furto nel cortile, noi abitiamo tra due villette in un cortiletto, praticamente i ladri sono entrati di notte e hanno staccato il generatore, poi fortunatamente i carabinieri erano già in zona, quindi sono scappati quasi subito. Ma non avete un impianto di emergenza che entra a tampone, che fa una luce d'emergenza? No, perché le spiego, è all'aperto, quindi non c'è questa cosa. Però da lì abbiamo provvisto, perché il discorso era anche le soluzioni. Ovviamente lo spavento è grande, non hanno rubato nessuno, non sono stati fatti tentativi né di furto di violenza. C'è dato un elemento in più, il fatto che stacchino la corrente, questo accade, corrente, allarmi, staccano tutto. Allora, fermi un attimo, ci sono tantissimi ascoltatori, li facciamo un attimo respirare, intanto chiamate 800 24 00 24, ho voluto lasciare l'esperto all'ascolto fino adesso, così ci dirà le cose che vanno bene, le cose secondo lui sbagliate. Marco Ferrarini, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Allora Marco Ferrarini, adesso diciamo la platea è sua, titolare della Ferrarini SRL di Parma, che tratta sistemi di sicurezza per la casa, ma anche lui abita in una villetta, quindi ha una doppia competenza. Di quello che ha sentito, cos'è secondo lei è giusto e cosa è sbagliato? Beh, innanzitutto grazie mille per darmi la possibilità di fare questo intervento, giusto anche per chiarire che purtroppo siamo in una situazione veramente grave, gli aumenti dei furti, come tutti ben sanno, sono diventati un'escalation veramente importante. Per lei però, scusi Ferrarini, è un'escalation anche nel fatturato, perché lei vende sistemi di sicurezza. Guardi, con i cali purtroppo, diciamo, di abbondanza di portafogli che c'è in giro, il fatturato non aumenta, aumentano i problemi. Ma perché non investono gli italiani in sistemi di sicurezza? Questo mi interessa, perché mettono il cane, il chihuahua, il fucile a pompa, ma un impianto di sicurezza che salvaguardi la casa non è un impegno economico, se la sentono di fare? Ecco, diciamo che spesso e volentieri si aspetta il fattaccio, di solito si aspetta l'evento e poi si chiude la casa, cosa che è l'esatto contrario di quello che si consiglia di fare. Bisognerebbe tentare di chiudere bene la casa, chiudersi nel modo, diciamo, corretto, che vuol dire chiudere le porte e tutte le finestre con una blindatura antintrusione certificata, se è una villetta almeno un classe 4, perché si ha necessità di avere un tempo di effrazione più lungo, quindi classe 4 prevede un 30 minuti di attacco, con questa tempistica... Cioè classe 4 resiste a 30 minuti di attacco, significa? Sì, con 15 minuti di attacco, 5 minuti di pausa e 15 minuti di attacco. Quindi al tempo di avvertire le forze dell'ordine, ecco, si pensa sì, a questo. Stiamo parlando di una categoria che non prevede l'attacco con strumenti elettrici o da taglio tipo fiamme ossicetileniche, quindi... Che sono, diciamo, strumenti usati solo in casi abbastanza rari, tutto sommato, o sbaglio? Solitamente sono i furti a ville vuote, quindi durante l'estate, durante il periodo natalizio, durante le vacanze dei proprietari. Quindi la famiglia in villetta si aspetta, come ha detto la signora, vengan con la vanga o con un cacciavite o con un piede di porco e tentino di spaccare la serratura e entrare. Questa è la cosa più semplice. Certo, certo, certo. Ecco, in questo caso, mi dica, una villetta media... Diciamo media significa la media villetta all'italiano, potrebbe essere una monofamiliare o bifamiliare con un patio, immagino, con due piani. Quanti vani deve mettere in sicurezza? Cioè quante aperture deve mettere in sicurezza? Tutte le finestre, tutte le porte? Tutti i fori che permettono il passaggio di un bambino. Un bambino si dice che passa in 15x15, le lascio immaginare quanti fori bisogna chiudere in una casa. Tantissimi. Qualcuno converrà a murarlo a questo punto, perché... Ma a volte sì, a volte no. Comunque montare una bella grata, una bella infariata fatta come Dio comanda, come si dice, a regola d'arte, quindi con delle belle saldature pesanti, con dei ferri grossi, certificata classe 4 e possibilmente collaudata anti-crack, perché il problema più grosso è che vanno, aprono il baule dell'auto e poi piegano le infariate con il crack dell'auto. Quindi bisogna avere, diciamo, un fornitore di fiducia, un qualcuno che veramente vi fornisce un componente di intrusione pensato e calibrato per la situazione. Ecco, per far capire, non solo le ferriate con il ferro ritorto, che carine, belline, e poi si attaccano con gli stop, sono quelle che entrano veramente dentro il muro? Sì, a parte che entrano dentro il muro è una parola molto grande, nel senso, quelle murate... Per assurdo sono più deboli che quelle tassellate, perché quando io vado a murare qualcosa vuol dire che ho distrutto il muro per poi ricostruirlo, mentre una cosa tassellata con un tassello a dimensioni pensate nel modo corretto e quindi tutti gli attacchi pensati per evitare di essere strappata in modo semplice è più sicura. Fermiamoci un attimo solo, che devo dare la pausa, sono già uscito un po' del tempo, poi continuerà a darci consigli pratici, abbiamo capito qualcosa. Prima ancora dell'arma sarebbe bene pensare a mettere in sicurezza tutti i vani della villetta, possono essere tanti, sarà sicuramente una spesa, però equivale, almeno se è la classe più alta di questo tipo di presidio, a una mezz'ora di tempo prima che possano entrare. Ci fermiamo fra un istante. Nuova Audi A4. Scopritela negli showroom Audi e su audi.it. Vi presenta... Melog. Cronache meridiane. Io verso le 5:30, 6:15 ho cominciato a sentire dei colpi. Sono scesa giù, sono andata a vedere quel che poteva succedere alla casa del mio figliolo. Quando sono arrivata a metà strada mi hanno preso 3 individui, uno, quell'altri due erano in disparte, e mi hanno portato in casa. Di lì mi hanno detto, te fai quello, urla, cosa, qui non c'è, fai quello che ti pare, ma qui noi non ti sente nessuno. E hanno cominciato a picchiarmi, a accusarmi, volevano il numero della cassaforte, la combinazione. Io quella non la potevo dare perché non la sapevo. Loro mi avevano visto scendere. 800 24 00 24, tra consigli concreti e fra rimedi a volte anche empirici, vediamo come si affronta il problema dell'isolamento nelle villette, luogo del sogno, del boom economico, oggi luogo dell'incubo, delle persone si sentono prese sotto assedio. Bruno, buongiorno. Sì, buongiorno, salve, buongiorno a lei. Io la ringrazio per farmi intervenire. Io sono di Perugia e volevo portare la mia testimonianza. Proprio ieri, purtroppo, ricorre il primo anno che ho subito una rapina a mano armata. Dov'era la sua villetta? Dov'era la sua villetta? Ma io abito a Perugia e in una zona, diciamo, di periferia, a 7-8 chilometri. Come si chiama la zona? La zona si chiama Canneto. Ah, Canneto, una, certo, io sono di Perugia, sono nato. Ah, è di Perugia, perfetto, quindi lei sa benissimo. Sì. Ok, mi era una volta un posto tranquillo, però io sono 30 anni che non ci vengo più, quindi. Ho capito, e niente, quella lì è una casa di proprietà, io ho una moglie con due bambini e mi sono ritrovato il 26 novembre dell'anno scorso alle 7:10 di sera, 19:10, con 3 incappucciati. È una casa su 3 piani, io lavoro per un'azienda alimentare, la sera mi devo collegare con il computer, ero in taverna dove ho un piccolo studio, e ero con un mio cane, un cocherino, e mi sono ritrovato questi signori 19:10 che mi hanno aperto questa porta, e erano tutti e 3 belli armati, coperti. Loro erano già entrati, erano saliti alla camera, metrimonale, diciamo al terzo piano. Loro mi hanno minacciato dicendomi che se non facevo nulla non mi sarebbe successo niente, dettero un paio di calci al cane e io infatti dissi, io ho 2 figli, non mi dovete toccare, faccio tutto quello che volete. Dissi anche, il cane non c'entra nulla, mi scusi l'emozione, ma no, capisco, è un momento brutto. È un momento brutto perché ripercorro sempre quegli attimi. Comunque è andata relativamente bene, nel senso si sono limitati a portare via le cose. Niente, mi hanno fatto salire, mi hanno fatto aprire la cassaforte perché aveva una combinazione e il secondo prese la federa con una velocità impressionante e con dei guantoni mise tutto dentro la cassaforte. Fatto il problema, dunque, fatto quello, che è chiaramente polizia, sì, se ne sono andati ovviamente con molta calma, poi chiamai la polizia, venne anche la scientifica perché era sequestro. Non furto, ma sequestro, rapina a mano armata con sequestro. E va bene, poi è tornata. Mi sente? Sì, sì. Pronto? Lei aveva l'impressione che avessero avuto un'indicazione, perché uno che va a botta sicura e sa che nella cassaforte c'è tanta roba da riempire una federa, secondo me avevano già un'idea di quello che avrebbero trovato. Questo sa, tutto può essere. Da allora com'è cambiata la sua abitudine e cosa ha fatto a casa sua? Guardi, noi abbiamo dormito, se così si può dire, 2 notti. Al terzo giorno ce ne siamo andati, siamo andati a casa di mia sorella e in poche parole adesso abbiamo, da dicembre stiamo pagando un affitto in una zona centrale di Perugia che purtroppo è a 200 metri dove è successo quel tragico episodio l'altro giorno di quella persona che ha ammazzato la moglie. Vabbè, quello non è, è una cosa brutta, ma se sono giocata in famiglia. No, non c'entra niente, perché adesso abitiamo in una zona, diciamo, centrale di Perugia con videosorveglianza. Quindi adesso l'emigrazione di ritorno, dalle villette si ritorna alla città. Grazie. Fermiamoci un istante, due telefonate veloci, poi chiudiamo col nostro ospite. Marco è caduto, Renato. Tutti e due caduti. Allora, Marco Ferrarini, andiamo avanti con lei, anzi concludiamo con lei. I due ascoltatori erano due persone che parlano sempre di pistole. Un istruttore di tiro dice: avete dato istruzioni sbagliate, come si usa il fucile a pompa. L'altro si è comprato una Beretta 92F, che è un'arma abbastanza potente. Ma vediamo invece dal punto di vista concreto e pratico. Un altro consiglio di blindatura di casa, quale potrebbe essere? Innanzitutto, purtroppo devo sfatare anche un mito per cui c'è qualcuno che dice: ah, non serve a nulla montare la porta blindata, ah, non serve a nulla montare le grate o le inferriate alle finestre. Non è vero. Parliamo chiaramente: se noi abbiamo un tentativo di attacco e non lo sapremo mai perché abbiamo avuto l'inferriata che è riuscita a sventare l'attacco, non ce ne renderemo neanche conto, ma è dimostrato che l'80% dei casi in cui sono montate delle inferriate fanno desistere i ladri. Quindi oggi esistono tantissimi sistemi elettronici aggiuntivi che una volta non c'erano, stanno uscendo finalmente. L'elettronica, in cui gli italiani credono molto o ancora troppo poco, ci darà molto. È un esempio dell'ultimo ritrovato che lei consiglierebbe, poi ci dobbiamo salutare che va la sigla, di allarme, di sistema d'allarme difficilmente individuabile dal ladro che lo può staccare prima di provare a entrare. Sì. Di vibrazione direttamente applicate alle inferriate, che sentono anche il seghetto, che sentono vibrazioni estreme, che sono capaci di imparare il rumore di fondo e quindi capire quando veramente c'è un tentativo di manomissione, di intrusione. Una battuta ultima: il budget quanto costa di media avere questo tipo di sicurezza? Spesso e volentieri troppo. Costa molto, però renda stare tranquilli. Grazie a Marco Ferrarini, alla prossima.